9 in punto, la versione di Oscar. Oh, safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Buon giovedì 8 di dicembre, e oggi giorno per il quale noi da settimane mandiamo in onda The End, The Doors, e oggi il giorno decisivo per vedere se ai mercati i leader dell'euroarea sono in grado di opporre misure che siano efficaci, cioè all'altezza dal punto di vista finanziario del selling in atto verso della svendita di titoli europei sovrani ma anche bancari in atto da mesi, se sia tempestivo nella sua capacità di intervento e se sia convergente nella volontà cooperativa di trovare misure comuni sia dal punto di vista del rispetto delle procedure di bilancio sia però nell'immediatezza per fare ciò che è necessario per a salvare la cintura più esposta, quella degli intermediari bancari, tanto per cambiare, b affrontare poi il problema di un meccanismo cooperativo sugli eccessi di debito. La cosa che mi colpisce di più stamane, oggi dedichiamo la puntata al fisco, ma sapete che inizio sempre man mano, ed è anche per capire, per farvi capire, perché mettiamo questa musica con una rassegna di cose europee per tenere sempre la testa su questa scadenza fondamentale. Siccome è noto che Giannino è un rompiscatole e a molti non piace il fatto che crede di essere saccente, non lo è affatto, non si ritrova in molte scelte che vanno per la maggiore. Per esempio, la cosa che mi colpisce oggi è che sui giornali italiani, nella media con tutte le sacrosante eccezioni, il tono di preoccupazione forte / fortissima che ci ha indotto in queste settimane a iniziare tutti i giorni così e a concludere tutti i giorni con i Doors, sui giornali europei non c'è tutto questo segno di tensione che siamo arrivati al giorno decisivo, non c'è affatto. Sono le modifiche alle pensioni e all'ICI, per carità, fondamentali, l'argomento sul quale praticamente tutti i giornali aprono, ma il senso di allarme, di tensione, di ciò che potrebbe avvenire se all'Eurovertice non si trova l'accordo, una svolta epocale potrebbe essere e sarebbe di proporzioni impensabili, indescrivibili, si abbatterebbe sui vostri patrimoni e risparmi con la forza di uno tsunami. Tutto questo, i casi sono due: o non viene descritto, perché a differenza del catastrofista e pessimista Giannino è meglio rassicurare i lettori, gli ascoltatori, oppure forse non viene neanche compreso, non viene immaginato, si pensa che sia un eurovertice qualunque, che l'euro ce l'ha dato Dio su Monte Sinai e quindi basta fargli qualche reverenza che tanto resterà tra noi. Ecco, io sono convinto che non sia così, che il pericolo sia fortissimo, fortissimo. E lo dico con tutto il rispetto per ciò di cui parleremo invece dopo, che ripeto è la questione del fisco, perché andremo a un record di pressione fiscale, lo spiegheremo tra poco, e toccheremo alcuni punti di cui uno è l'ICI, come inevitabile, perché le dimensioni della nuova tassa sugli immobili si stanno chiarendo, ci sono le prime riflessioni su quante milioni di famiglie addirittura potrebbero entrare in difficoltà per questo maxi prelievo di 11 miliardi di euro di portata. Ma fatemi ancora riflettere un secondo insieme a voi sulla rassegna stampa di queste 24 ore decisive che cominciano oggi, ma non perché io immagini, nessuno può immaginarlo, che in queste 24 ore si possano calmare le acque degli oceani, i marosi dei mercati, tutto storna come prima, tutti i tassi di interesse, gli spread, i titoli del debito pubblico, i rendimenti convergenti sul bond. Questo non può avvenire, ma di sicuro, se non c'è una decisione che abbia quelle tre caratteristiche che vi ho detto all'inizio, si può rompere la diga. L'euro può veramente saltare, può può veramente saltare. E oggi, stamattina, i maggiori giornali, europei sono pieni di notizie come quelle dell'Handelsblatt, che in prima pagina informa come le autorità svizzere, il sistema bancario svizzero, la banca centrale svizzera siano preparati in questi ultimi giorni con dei piani di emergenza su come affrontare la rottura dell'euro, come affrontare la ridenominazione in valute locali possibili all'interno del sistema di pagamento europeo. Quali tipi di imposte e prelievi straordinari assumere per evitare eccessive perdite nel caso in cui i depositanti in Svizzera chiedessero secondo massimali troppo elevati la conversione nell'una o nell'altra valuta. Ebbene, le cose più importanti che segnalo si riferiscono negli sviluppi delle ultime ore prima dell'Eurovertice alla valutazione, una valutazione molto critica che le autorità tedesche e la cancelliera Merkel hanno dato della proposta di Van Rompuy, di cui abbiamo parlato ieri mattina, a cui i giornali italiani hanno dedicato anche lì scarsa attenzione. Ricordate che il mister Juro, a nome della Commissione, in realtà ha avanzato una proposta diversa da quella tedesca, tentando di limitare le modifiche al trattato, invece che su questioni di vasta scala, come preferiscono i tedeschi, a un protocollo, il cosiddetto protocollo 12 TFU in gergo, ed è il protocollo che disciplina appunto gli eccessi di deficit. Ora, questa proposta di Van Rompuy, avanzata nell'idea che non solo il Regno Unito, che è la parte più euroscettica, ma anche la Repubblica Ceca, l'Olanda siano su questa linea per impedire, cioè, di imbarcarsi in una procedura di modifica dei trattati troppo profonda, sulle cui esiti molti sono scettici e preoccupati, i tedeschi hanno reagito durissimamente sui giornali stamattina. Cito solo Quentin Peel sul Financial Times, ma su altri quotidiani come Süddeutsche Zeitung e la Frankfurter Allgemeine trovate molti articoli, esattamente tutti ispirati e convergenti alla reazione tedesca, molto adirata con questi che vengono definiti degli sporchi trucchetti addirittura di questa procedura del protocollo 12, che i tedeschi considerano indecente, illegale, chiedendosi ma chi mai potrebbe credere che la svolta di cui c'è bisogno si possa adottare, spiegando ai mercati che noi stiamo stabilendo una nuova procedura di unione fiscale in una specie di annesso al trattato, un protocollo annesso, ma chi mai potrebbe crederci? Questa è la classica furberia dell'eurocrazia, della tecnocrazia della Commissione. I tedeschi sono furibondi su questo. E sicuramente questo non aiuta nelle ultime ore decisive per l'avvicinarsi all'Eurovertice. Si parla addirittura di costernazione che nelle altre cancellerie europee la reazione durissima tedesca avrebbe ispirato, facendo tornare anche il mercato a una seria preoccupazione. Il problema è che una modifica che coinvolga 27 paesi, questo è l'appello iniziale, o i 17 dell'euroarea, ma molto profonda, delle procedure come quella che chiedono i tedeschi per sancire al mondo e al mercato la nascita di un'unione fiscale vera e l'armonizzazione tasse fondamentali, non solo quella sulle transazioni finanziarie, ma anche per esempio quelle sulle imprese e politiche nel mercato del lavoro che iniziano a diventare comune, tutto questo a molti fa grattare la testa, perché ovviamente poi la politica intende mantenere il controllo invece su questi argomenti dal punto di vista della sovranità nazionale. Cito solo William Boyter, che ha sul Financial Times di questa mattina, che si interroga su cosa avviene davvero se c'è il collasso dell'euro, e William Boyter evidentemente ha la stessa malattia del molto più modesto che vi parla, perché lo scenario, se vi interessa, leggetelo, è devastante. Sottolineo anche sul Financial Times Deutschland l'articolo di Wolfgang Proist, vi ho citato spesso nelle ultime settimane Wolfgang Proist, una delle firme più acute e con le analisi più penetranti dal punto di vista tecnico. Oggi scrive che non è la Banca Centrale Europea di Mario Draghi quella che può fare veramente la differenza per salvare l'euro nelle prossime coppie di giorni. più che tagliare i tassi e prepararsi a interventi straordinari nel caso in cui i mercati ballino, non può certo sostituirsi alla volontà dei governi. Le banche, un ultimo accenno, torno a Handelsblatt che cita un studio di Deloitte, i requisiti di capitale determinano un'accelerazione del processo di deleveraging del sistema bancario europeo e per effetto del deleveraging del sistema bancario europeo Deloitte calcola che le banche saranno costrette a cedere assetti per un volume di valore pari a 1.700 miliardi di euro, di cui 522 solo da parte delle banche tedesche. Questo per dare un'idea di che cosa c'è dietro l'angolo. Allora, l'argomento del giorno invece, che è di tutt'altro tipo ma è connesso, con la manovra del governo Monti arriviamo a un record della pressione fiscale. Allora, arriviamo a un record della pressione fiscale perché l'accusa che molti muovono, che è fondata alla manovra del governo Monti, è quella, in realtà, tranne l'intervento di accelerazione della parificazione dei tetti di anzianità e vecchiaia nella previdenza, ma per il resto è una manovra tassa dove c'è, per così dire. Quindi pilastro fondamentale 11 miliardi tassa sugli immobili, e poi bolli, la patrimoniale sugli strumenti finanziari, le accise, tutto questo a molti dice ma c'era bisogno dei tecnici, dei professori per fare questo. Allora partiamo con gli ospiti nostri che abbiamo stamattina in un esame a 360 gradi innanzitutto di questo record della pressione fiscale per capire a quanto arriveremo. Eravamo poco più il 44%, era già un record quello a cui ci aveva condotto il governo Berlusconi magari delle sue promesse. Tentiamo di capire dove possiamo andare e poi ci interroghiamo sui maggiori pilastri fiscali della manovra. Sono con noi per parlarne, io ho parlato troppo stamattina come sempre, Enrico Zanetti, commercialista e direttore di eutecne.info, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E il professor Raffaello Lupi, lo conoscete, che ogni tanto è il nostro faro sulle materie, insegna il docente di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza all'Università di Roma Tor Vergata, e il suo sito lo segnalo a tutti gli appassionati di questioni fiscali, fondazionestuditributari.com. Buongiorno professor Lupi. Buongiorno. Allora, Zanetti, ci fa capire le stime che avete compiuto ieri dove portano l'attesa di pressione fiscale sul PIL italiano, che è in contrazione nel 2012 rispetto a quello che ci aveva regalato il governo Berlusconi Tremonti, che era già sopra il 44%. Secondo voi a quanto si arriva? Ma allora, come giustamente le ricorda, già con l'ultima manovra avevamo sfondato in previsione il tetto è il 44%, prima volta nella storia, posto che i due anni più traumatici in passato sono stati il 2007 e il 1997, gli unici due in cui si era superato il 43%. Dal 2012, già con la manovra di agosto, si sarebbe superato il 44% di poco e si sarebbe avvicinati al 45% del 2013. Con questa ennesima manovra inevitabilmente andremo già dal 2012 al 45,17% e vicino al 46% dal 2013. Però questo dato è un dato che ancora si calcola avendo riguardo alle stime del PIL presenti nell'ultimo aggiornamento del documento economico finanziario, stime che è già stato detto che dovranno essere riviste al ribasso perché prevedono delle prospettive generose di crescita, purtroppo rispetto a quello che sarà reale, di quasi 2 punti di nominale sul 2012 e quasi 3 sul 2013-2014. Noi abbiamo provato un attimo a rivedere questi numeri che già comunque danno per scontato che saremo sopra il 45%, già questo ripeto è un dato sconcertante. Nell'istante in cui si passa a un più realistico 1% sul 2012 e 2% nel biennio 2013-2014, ecco che nel 2014 arriveremo a un passo dal 47%, in presatezza secondo i nostri conteggi 46-85%, e con una battuta direi che se arriviamo al 47%, a una quota 47 di pressione fiscale, potremmo veramente dire che il paese sarà morto che parla. Allora, professor Lupi, le posso chiedere intanto una valutazione su questa questione che divide un po' la reazione di tutte le parti sociali, e le divide nel senso che tutte le parti sociali si situano in una forbice tra chi non ne fa il primo rilievo e chi invece ne fa il primo rilievo, ma tutti concordano. Quando si arriva a una stretta di queste proporzioni ulteriori, quando c'è un'economia reale in forte deterioramento, e cioè in recessione conclamata, oramai si ottiene un effetto che è molto diverso da quello che ci si propone. Se ci si propone di stabilizzare in realtà il debito pubblico, il denominatore, sfiorendo sempre di più, rende gli avanzi primari stretti con le nuove entrate una specie di ricorsa impossibile, come la tartaruga Achille, perché in realtà li uccidiamo e a quel punto niente. Che pensa lei? È che io mi occupo di determinazione della ricchezza ai fini tributari e quindi i riflessi, che già è molto difficile, riflessi economici non le devo chiedere anche questo, sì. Erano prevedibili, le spese pubbliche prevalentemente sono fatte da interessi, da stipendi, da pensioni. Io capisco bene che si dica abbiamo agito solo sulle tasse, però le spese pubbliche sono c'è stata poca fantasia nell'individuare strumenti per la ricchezza non registrata, quello che io chiamo il paradiso di quello che è nascosto. La tracciabilità è timida, è contraddittoria, ci sono delle sanzioni penali squilibrate, allucinanti, insomma è un guazzabuglio la parte della richiesta delle imposte. Io ho i brividi sento dico la lotta all'evasione, perché pare che sia Zagaria, la mafia e la camorra, cioè sono pasticceri, falegnami a cui bisogna solo andare a chiedere i soldi. Quindi soldi si dovevano fare per le ragioni, purtroppo dove le aziende non arrivano, il fisco le mani da mettere in tasca agli italiani neanche ce l'ha, è come se fosse monco, artritico, e quindi bisognava aumentare la benzina, cioè non è che ci volevano i professori, effettivamente per aumentare la benzina sta grande pensata la poteva fare il mio amministratore di condominio, però questo è la situazione. Se ricercare la ricchezza non registrata è terribilmente complicato, non è che lo fa un decreto legge, cioè se noi non lo sappiamo come opinione pubblica come spiegarci la ricchezza non registrata, se la tassazione attraverso le aziende, il ruolo degli autonomi, degli uffici, non l'ha capito nessuno, non è che adesso arriva Monti con la bacchetta magica. E quindi probabilmente potevano fare solo questo. Sì, e io devo dire la verità, in questo sono abbastanza d'accordo col professor Lupi, perché le critiche mi sembrano comprensibili, però alla fine nessuno riesce a camminare sulle acque. La mia critica sono due diverse, le ho dette, le ripeto, ma non c'entra niente con la cosa di cui discutiamo oggi. Una è relativa al fatto che secondo me bisogna dare una spallata all'ammontare complessivo del debito, perché altrimenti appunto solo con gli avanzi primari uccidiamo l'economia. Le strade sono due, come è noto, io sono per l'abbattimento del portafoglio immobiliare pubblico con 20 punti di PIL in un fondo immobiliare chiuso da cedere al mercato, e temo di dovervi dire, cari ascoltatori, che se alla fine questo non si fa né col governo di un colore né di un altro né con il governo dei tecnici, inizio a pensare che sia per non deprimere con un'offerta di 300 miliardi di euro il valore medio dell'unità immobiliare che stanno in portafoglio, intermediari finanziari, banche e tutto il resto, e magari dicendo che così si dà anche una mano a non deprimere il valore dell'unità immobiliare che avete voi ascoltatori in portafoglio. State attenti a quello che vi sto dicendo, perché se noi non facciamo limitare il perimetro di ciò che è pubblico, il mattone pubblico, e la scusa è che bisogna sostenere il valore delle unità immobiliari private, cioè delle banche vostre, è un cane che si morde la coda. Io temo che sia questa la vera ragione per cui non si fa la maxi operazione immobiliare. E poi la mia seconda obiezione, ma questa la vediamo dopo, sì, col professor Lupi, perché è attinente, è quella relativa al riequilibrio dei pilastri dell'ordinamento, cosa che non si fa però in 18 giorni, e anche su questo ha ragione il professor Lupi. Invece iniziamo a inoltrarci su il pilastro fondamentale, oltre alle pensioni, di cui non parliamo oggi, dell'intervento fiscale, e cioè la reintroduzione dell'imposta sugli immobili, compresa prima casa. La cosa che mi colpisce, professor Lupi, è che in realtà questa bella sberla, ieri il presidente dell'Istat Giovannini ha segnalato che a suo giudizio almeno 1,6 milioni di famiglie, dice l'Istat, saranno a rischio di povertà in quanto proprietari di una casa, che avranno delle difficoltà, sia pure per magari se sono anche solo poche centinaia di euro in più per la nuova imposta. Ma quello che mi colpisce è che in realtà per via della rivalutazione degli indici, dell'indice da applicare alla rendita catastale, ci si ricava tra prima abitazione e seconda abitazione quanto, se ho ricostruito bene la storia dell'ICI, non abbiamo mai ricavato negli anni precedenti dagli immobili. Perché lo dico a chi ci ascolta, l'ICI nacque nel 92, era stato Amato a introdurlo, si chiamava imposta straordinaria immobiliare, la misura dell'imposta era tra il 3 per 1000 e il 2 per 1000 per le abitazioni principali, il gettito fu era in lire 11.550 miliardi di lire, cioè praticamente meno di 6 miliardi di euro. Poi si trasforma, perché naturalmente questa che nasce come imposta straordinaria diventa imposta comunale sugli immobili. Imposta comunale sugli immobili, la misura dell'imposta da un 4 per 1000 a un 7 per 1000, quindi entriamo in una fascia di aliquote simili a quelle a cui si sta tornando adesso nel 93, con detrazione d'imposta per le abitazioni principali fino a 200.000 lire, all'epoca eravamo ancora in lire, quindi 103 euro. Andiamo poi al ritocco del governo Prodi, che amplia detrazione ICI sulle abitazioni principali fino a 200 euro e quindi arriviamo a 303 euro di detrazione, e con 823 milioni di euro di gettito, e all'abolizione del ICI prima casa da parte nel 2008 del governo Berlusconi, con un minor gettito che deriva da tale esclusione pari a 1,7 miliardi di euro. Quindi gli 1,7 miliardi di euro che si aggiungono agli 823 milioni di euro del governo Prodi, siamo a 2,5 miliardi di euro. Aggiungo l'IMU, cioè l'imposta municipale sugli immobili, che doveva essere la tassa del federalismo introdotta dai decreti attuativi del federalismo del precedente governo, era stimata in un gettito di 1,1 miliardi di euro, sono andato a rivedermi le carte, e la misura dell'imposta era il 7,6 per mille. La domanda che faccio a questo punto al professor Lupi è: la congruità della determinazione di una rivalutazione così alta della base imponibile ICI, che ci porta tra prima e seconda casa a una stima di addirittura di poco più di 11 miliardi, e abbiamo visto quanto fossero pesanti ma più contenute le tassazioni degli immobili precedenti, che pure il governo Berlusconi ebbe il torto, secondo me, di abolire. Questo squilibrio si deve, secondo lei, a un'emergenza, oppure siamo in è un primo passo che ci fa capire come faranno il riordino sistemico della pressione fiscale, e ci dobbiamo aspettare quindi che questo peso deciso, immediato, ma più rilevante di quanto fosse in passato sull'imposta immobiliare, sia il prodromo di un recupero per cui c'è meno tassa sul reddito? Perché questa è la mia altra domanda: se non c'è meno tassa sul reddito, lavoro e impresa, qui il sistema fiscale ci fa crescere sempre di meno. Lei che dice? Che il caso è classico di tutte le forfettizzazioni. Le rendite catastali nell'insieme erano sotto ai valori reali, però alcune erano molto sotto per ragioni storiche, altre erano abbastanza sotto. Facendo questo aumento indiscriminato, forse qualcuno finisce addirittura sopra i valori reali in alcune zone. Qualcuno resta ancora molto sotto, cioè abbiamo visto dei servizi televisivi con le case a Piazza di Spagna che valgono per il catasto 100.000 euro, quindi probabilmente aumentandole del 60% quelle ancora stanno parecchio sotto. Forse in alcuni quartieri nuovi di periferia le rendite catastali già erano vicine ai valori normali, ai valori di mercato, e probabilmente qualche volta sballano, e non si può dire a qualcuno ti tasso su una ricchezza che non hai, perché sai com'è, qualcun altro non lo tasso su una ricchezza che ha. Qui noi non ci abbiamo un catasto che sappia gestire i valori reali, cioè è un aspetto dell'incapacità dello Stato di richiedere le imposte, perché poi tutto ritorna qua, cioè si chiede alle aziende di tassare, si chiede ai cittadini di tassarsi, ma lo Stato non si vede più. Il catasto, io mi ricordo, sono abbastanza vecchio, quando c'erano i geometri del catasto, adesso è tutto DOCFA. Vai lì, scrivi, ma non è che qualcuno alza i tacchi dalla scrivania, va a vedere le case, fa le perizie, accatasta. Beh, mi sembra il vuoto pneumatico, l'encefalogramma piatto, e quindi bisogna andare con questi aumenti indiscriminati che politicamente non funzionano, perché chi sta ancora sotto protesta e non ringrazia, non è che dice mi è andata bene perché io sono ancora sotto di 500.000 euro, quegli altri fanno un macello. Lo so, io temo però che le impugnative ci saranno, per quanto noi siamo in presenza di una giurisprudenza che tende sempre a dare ragione allo Stato. Proprio ciò che cita il professor Lupi, la disomogeneità del catasto precedente, ma resta la disomogeneità anche una volta che si applica il coefficiente del 160 invece che 100 all'aumento della rendita catastale del 5% che era prevista, e le disomogeneità saranno moltiplicate a questo punto. Vedremo quanti faranno impugnativa, perché io temo che la stima del fenomeno dell'aggravio le famiglie italiane non l'abbiano ancora compresa, ed è un aggravio significativo, molto significativo, per chi ha più immobili poi molto significativo. Io auspico anche che questa svolta, io spero che sia una svolta ordinamentale, che non sia uno one off, per così dire, una botta e via per prendere dove c'è, e induca gli italiani anche a capire la convenienza nel medio-lungo periodo dell'investimento nel mattone. E tendenzialmente gli italiani lo considerano la cosa più solida che c'è, però loro non incorporano il 3, 4, talvolta 5% medio anno, a seconda di quale parte di città sia e di la qualità dell'immobile che dovrebbe essere il rendimento annuo. Non lo fanno e restano seduti destinando su questi immobili che comprano, destinando una parte troppo elevata dei propri redditi disponibili per un troppo elevato arco temporale a mattoni che poi, di cui non incorporano l'avvaloramento, perché poi non li cedono nel frattempo che li stanno pagando per passare a fasce più elevate, come si fa se è una strategia di asset allocation, di rendimento del proprio risparmi e dell'ampliamento del proprio patrimonio. Bene, pubblicità! Ed eccoci poi passare a un'altra questione di fondo. Che cosa succede una volta che lo Stato riconsidera il patto che aveva fatto con tanti contribuenti, i famosi contribuenti che avevano utilizzato lo scudo fiscale Tremonti, che avevano quindi regolarizzato con un'aliquota bassissima il capitale che avevano costituito e detenevano all'estero? Che cosa succede quando lo Stato, per ragioni di superiore necessità, ridiscute quel patto, se lo rimangia, sia pure in cambio di un aggravio poco significativo, perché l'aumento che chiede a chi aveva scudato ed è a copertura, ed è dichiarato a copertura della persistente indicizzazione dei trattamenti previdenziali per i quali non viene sospeso, cioè per quelli ai minimi e fino al doppio dei minimi entro il 50%, perché immaginare che questa roba non resti senza conseguenze, quando poi tanti altri si chiedono ma non possiamo fare come la Gran Bretagna e la Germania, che hanno firmato un accordo con la Svizzera chiedendo alle banche svizzere di diventare sostituti d'imposta per conto di quei due paesi e portandosi a casa, si dice, si stima, altri miliardi di euro, perché l'Italia non fa altrettanto? Chiedono molti, mi chiedono molti, ci chiedono molti qui al Sole 24 Ore, Radio 24, visto che la stima resta di attività finanziaria in Svizzera riferibile a cittadini italiani per almeno altri 100 miliardi di euro, perché insomma, quando anche ci fosse un'adesione al pagamento di imposta forfettaria anche solo dei 2/3, e se l'imposta forfettaria fosse all'ordine del 20%, porteremmo a casa un altro punto di PIL, 16 miliardi di euro. Ma è veramente privo di conseguenze questo ritornare sullo scudo fiscale secondo il professor Lupi? E poi, è credibile davvero che le convenzioni, quelle firmate dalla con la Svizzera, dalla Gran Bretagna e dalla Germania, sono state firmate il 21 settembre con la Germania e il 6 ottobre con il Regno Unito, e che chiedono alle banche svizzere di diventare sostituto d'imposta, dicendo ai clienti tedeschi e inglesi: benissimo, voi ci date un tot molto elevato, a seconda di quanto avete quanto a lungo avete detenuto qua, fino a un quarto del totale, come ciò che dovete, bisogna restituirlo al vostro stato d'origine, perché non avete pagato le tasse fino a questo momento, e dopodiché sostituire noi come percettori dell'aliquota ordinaria anno per anno sull'accrescimento, sulle rendite che vi vengono dal vostro patrimonio investito. È credibile che funzioni visto questo accordo, visto che siamo in costanza di anonimato? Che pensa il professor Lupi? Pare che molte banche svizzere si stiano comprando banchette in paesi tipo sud-est asiatico, Singapore. Io non so che cosa ci vogliono fare, però qualche idea mi viene. Cioè, perché non spostate i soldini? Ecco. Cioè, non è che, allora, noi l'avremmo dovuto fare ieri questo accordo, cioè quello che hanno fatto gli inglesi e i tedeschi l'avremmo dovuto fare ieri, cioè non ci sono ragioni per non farlo, perché è una delle cose che si possono fare per legge. Io dico sempre, non si può valutare il reddito di un fioraio per legge, l'accordo si può fare per legge, quindi sicuramente andava fatto. Dubito che depositante italiano non prenda le sue contro, cioè mi sono sempre chiesto, ma se questo l'imposta non la vuole pagare e dice sposto i soldi a Panama, gli svizzeri che fanno? Segnalano, non segnalano all'Italia o alla Germania o all'Inghilterra? Si lasciano scappare i soldi? Per questo dico, magari si comprano una banchetta in un altro paese, dicono quello però è controllato da noi ma è fuori dalla giurisdizione svizzera, e quindi abbiamo fatto, come è successo per l'euro ritenuta, che si facevano le società offshore che costavano 100 euro e poi il conto era intestato alla società offshore e non a Raffaello Lupi, e quindi la ritenuta non si faceva. Quindi temo che dietro ci possa essere qualche altro trucchetto, però andava fatto. E però senta un po', professore, perché questa è una dei temi più ricorrenti, perché io, a chi chiede come mai l'Italia non l'ha fatto, io temo di aggiungere un altro pezzo di verità, perché Tremonti diceva, ma se io lo faccio con i tassi molto elevati, sia per regolarizzare i mancati pagamenti delle tasse sui depositi degli anni precedenti, sia poi con le aliquote ordinarie, a quel punto anno per anno, utilizzando le banche svizzere come istituto d'imposta, io credo che, diceva lui, i tedeschi e i britannici non porteranno a casa niente, perché il meccanismo non funziona con gli accordi con gli inglesi e tedeschi con l'obbligo di segnalazione, funziona con la banca svizzera che dice al cliente tedesco e britannico: caro mio, questa è ciò che il governo tuo vuole, siccome i tuoi governi ci stanno molto rompendo le scatole, noi te lo dobbiamo dire. Ecco, io te lo devo dire. Allora, però i casi sono due: tu non sei obbligato, nel senso che se cambi banca e sparisci, cambi banca non dalla Svizzera, sparisci dal nostro radar svizzero, noi non ti possiamo fare niente, però ti ammoniamo che se a quel punto vuoi riaprire un rapporto con noi, non puoi, perché questa è la cosa. Risultato, succede esattamente quello che ha detto il professor Lupi, tutti vanno nel farista e le stesse banche svizzere si attrezzano. Allora domanda, ma perché, mi sono chiesto ai miei amici banchieri svizzeri, dicevo, mi spiegate allora perché l'avete fatto? Molto semplice, non perché siamo scemi e vogliamo a quel punto perderci i clienti, cosa che non avverrà, ma perché l'ultima riga del protocollo firmato con i tedeschi e firmato con gli inglesi dice che noi diamo un acconto, e l'acconto è di 500 milioni di franchi svizzeri ai britannici e 2 miliardi di franchi svizzeri ai tedeschi, e in base a quell'acconto però le autorità di quei due paesi la piantano di romperci le scatole e di schiattenarci i servizi segreti e di dare soldi ai funzionari infedeli delle nostre banche che ci hanno procurato un fracco di guai in questi anni. E allora abbiamo passato gli svizzeri, grande! Allora, io non lo so se questa ricostruzione, però io temo che sia un po' così, cioè, quindi alla fine manco dalla Svizzera, professore, noi riusciremo a ottenere niente. No, però è sempre un impatto sia psicologico sia finanziario, perché poi alla fine gli svizzeri i soldi ce li danno anche se non li recuperano dai depositi. Sì, ne danno in parte rispetto al totale che dovrebbero. Quindi qualche cosa. cosa, il punto vero è che noi abbiamo un problema che gli inglesi e i tedeschi non hanno, cioè il capitale. Non c'è tanto la questione dei redditi finanziari che sono stati conseguiti sui depositi all'estero, è che spesso il capitale è il reddito evaso e si sovrappongono questi due. Adesso non è che i soldi si portano all'estero, i soldi si formano all'estero, certo, basta andare su internet e cercare alcune situazioni dove il cliente italiano dice al fornitore straniero: alzami un po' la fattura, la facciamo pagare dalla società italiana, la differenza me la storni nel Liechtenstein. Questo non è un problema di redditi, è un problema di capitali che sono a loro volta redditi nascosti. Non è il salumiere qua. Certo che non è il salumiere. Ha un alto valore simbolico, ha un alto valore simbolico. Allora è comprensibile che nella manovra, non per ragioni di gettito, ma per ragioni di conferenza stampa, di simbolo, l'ala sinistra abbia detto: allora perché i pensionati e non quelli che hanno fatto lo scudo a prezzi stracciati? Cioè lei stesso dice che era per ragioni di comunicazione, diciamo propaganda, non l'ha detto così, ma ho capito bene? Mamma mia, dopo tutto si tiene un po' in piedi con la propaganda, anche se è una componente importante, cioè che cosa diciamo, che cosa abbiamo fatto fare ai ricchi? Ah no, è chiaro. E quindi si sta in termini di comunicazione. Perché io credo francamente che rompere il patto con gli scudati per un 1,5 per un piatto di lenticchie, ma è un simbolo. È una roba che per me, primo, per principio lo Stato non deve farlo. Secondo, ma ci deve essere proprio una roba, perché fatto così semplicemente la gente non si fiderà. Ancora meno, secondo me fa bene a non fidarsi, perché poi io ho l'idea semplicemente della conferma dello Stato ladro, che cambia idea ogni 5 minuti, fa un patto con me, poi cambia idea, eccetera, eccetera. Qui non si tratta, ripeto, degli anni di pensione, gli anni di pensione, rispetto. Qui si tratta del fatto, torna, renditi emerso rispetto alle profondità in cui ti fai gli affari tuoi, rispetto all'eccesso che ti chiedo come Stato. Una volta emerso dico: queste sono le condizioni, allora arresi amici come prima, poi ti sparo, e allora sei ladro, ma sei pure bugiardo sei, e allora noi adesso abbiamo le informazioni sulle strade. This is the end. E anche alla conclusione di questa giornata, a maggior ragione visto che siamo alle ore decisive per l'Eurovertice, naturalmente la musica dei Doors. Aggiungo che la manovra Monti cancella il limite di 15 giorni di durata massima degli accessi in azienda per le verifiche fiscali, cioè le verifiche della Guardia di Finanza sono senza limiti di tempo anche per i piccoli contribuenti. Il legislatore ha cambiato nuovamente idea sui tempi, naturalmente, delle verifiche, e questa è un'ulteriore cosa che dà l'idea della povera vita di noi contribuenti con le nostre piccole società, che non sappiamo mai per quanto dobbiamo tenerle i documenti, perché poi improvvisamente si raddoppiano, arriva una sentenza per cui te lo si può chiedere anche a 10 anni e così via. Torniamo sul punto della fiducia dello Stato, sentiamo rapidissimamente due ascoltatori, poi sentiamo che ne pensa il professor Lupi dello Stato che cambia idea per un piatto di lenticchie, come ha detto lui stesso. Massimo da Roma, prego Massimo, come la pensa? Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Io la penso in questo modo. Sono d'accordo con lei, direttore, nel dire che lo Stato deve dare una sicurezza in quello che dice e in quello che fa. E quindi sull'1% che vogliono chiedere, l'1,5% che vogliono chiedere in più sui capitali scudati, io rimarrei sul quello che il patto è stato fatto. Il patto è stato fatto più di una volta per il rientro dei capitali esportati all'estero illegalmente, diciamo. Ora, si valuta che, adesso non so se i miei dati sono esatti, intorno all'80%, solo il 20% di quello che poteva essere scudato è rientrato, e quindi ci rimane un 80%. Ora, nei momenti di crisi, lo Stato, proprio a far onore al fatto che lo Stato quello che dice fa e mantiene, dovrebbe cominciare a dire: ok, il momento è di crisi, quindi cosa si deve fare? A quell'80% che è rimasto fuori, gli si dice: cari signori, vi do 2 settimane di tempo per farlo rientrare all'aliquota del 43%. Altrimenti confisca automatica. Mi perdoni Massimo, confisca che se quelli hanno le cose fuori? Confisca cosa? Non capisco la minaccia in che consiste, Massimo. E lei dice, la gente, l'80% ha continuato a tenere le cose fuori. Dice, e a quelli diciamo, entrate 43% per di più, oppure confisco. E che confischiamo? L'aria, Massimo. E, no, no, ma non è per polemizzare, ma siccome al fisco sono patrimoni non noti, capisce? Quindi che confisca? Io capisco, però attenzione col giustizialismo che finisce per acchiappare le mosche, per così dire. Sentiamo come la pensa Stefano da Palermo. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Prima di tutto vorrei fare un quesito di ordine tecnico, al quale probabilmente lei e i suoi ospiti avete già risposto, e cioè se la rivalutazione si applica anche alle rendite catastali che sono state assegnate di recente, mettiamo quest'anno sulla base di una catastazione avvenuta quest'anno o sulla base di modifiche che sono intervenute sull'immobile. La seconda domanda che vorrei porre a lei e ai suoi ospiti è in merito al rispetto del patto che lo Stato fa con i cittadini. Quando noi sosteniamo che effettivamente l'applicare un'ulteriore aliquota dell'1,5% ai capitali scudati sostanzialmente significa andare a non mantenere un patto che abbiamo fatto, io vorrei riflettere sul fatto che il patto viene meno anche certo. Quando ridiscutiamo a brevissimo tempo, a 6 mesi, a un anno di distanza, per esempio il limite del pensionamento di anzianità. Capisco che lei dice un patto generale, allora se lo facciamo per le pensioni, perché non possiamo farlo a maggior ragione per chi ha i capitali fuori o per chi evade. Allora, sulla prima questione, Zanetti, anche perché io credevo l'avessero salutata e le chiedo scusa perché l'abbiamo tenuta dopo la prima domanda in ascolto, eccetera, eccetera. Qui la questione sollevata dall'ascoltatore è quella che può preludere a pacchi alti così di impugnative per il coefficiente applicato alla rendita catastale. Lei che pensa, che dice rispetto alla domanda che ci ha fatto l'ascoltatore? Rispondo e poi approfitto per fare un paio di considerazioni anche sulle interessanti cose che ho sentito sin qui. Allora, innanzitutto per come è strutturata questa modifica, direi che sicuramente la rivalutazione cosiddetta del 60%, che in realtà è un cambiamento del moltiplicatore che si applica alla rendita catastale da 100 a 160, si applicherà invariabilmente a tutte le rendite, senza distinzione tra rendite assegnate tanto tempo fa e rendite assegnate di recente, proprio perché non è una rivalutazione della rendita, è una modifica di un moltiplicatore. Questo l'abbiamo spiegato fin dalla prima mattina quando i giornali erano andati dietro a Grilli che aveva semplificato. Poi per quanto riguarda le giuste osservazioni sulla forte differenza di gettito che determina questa nuova IMU, che da sola pesa quasi per il 50% delle maggiori entrate di questa manovra, e quella che assicurava la vecchia ICI, è un insieme di due fattori. Oggi oggettivamente siamo di fronte a una sopravvalutazione ai fini fiscali dei valori immobiliari e quindi del conseguente gettito. In passato però c'era sicuramente una sottovalutazione, esatto, elementi che determinano un gap notevole. Per quanto riguarda, e ne approfitto, mi inserisco anche in questo, il discorso legato legato allo scudo fiscale, sì, quindi alla violazione del patto, devo dire che lì più che sulle rendite ci sono presupposti giuridici perché si assista a breve a un diluvio di ricorsi. Fatta questa considerazione di carattere giuridico, però mi trovo assolutamente d'accordo con l'ultimo ascoltatore, perché non si sta più di tanto, non ci si sta tracciando più di tanto le vesti, come viceversa si era fatto questo agosto quando se ne era parlato, perché è chiaro che nell'istante in cui si vanno a ridiscutere regole anche su pensioni e quant'altro, è difficile dal punto di vista emotivo compartecipare troppo al dolore di chi ha scudato i capitali. Fermo restando. Aspetti che la devo fermare perché sennò qui ci levano la linea. Professor Lupi, ma lei domani mattina può stare ancora con noi? Io intanto glielo ho radio chiesto. 24. La ringrazio, appuntamento a domani nella radio. Si sente.